Femmina incatenata sempre alla stessa persona, lasciata sola che accompagnita la disperazione. Femmina che prima l'hanno avuta e poi ce l'hanno alluata, ma l'amore non l'hanno mai negato. Femmina che credono solo in una creatura, ma il sogno loro non si è mai avverato. Femmina che pigliano in mano tutte le situazioni, femmina che solo loro portano innanzi la nazione. Femmina affogata da paura senza protezione, sono femmina tutto quanto e femmina nessuno. Sono femmine fortunate che hanno passato terra una vita hanno passata, con chiante l'hanno sempre negata e l'alleria l'hanno sempre calata.